Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci al secondo appuntamento settimanale con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto come sempre il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Dunque, l'altro giorno si parlava di soldi, oggi per cambiare parliamo di soldi, in particolare di nuove povertà, perché anche la Caritas ha lanciato un allarme. Purtroppo dobbiamo continuare a parlare di notizie poco gradevoli, perché come hai detto te commentiamo alcuni dati che hanno dato la Caritas in questi giorni, proprio per sottolineare ed evidenziare come la crisi sta investendo un maggior numero di persone e ogni giorno sempre più persone si rivolgono proprio alla mensa della Caritas per soddisfare un bisogno primario come quello alimentare. Bisogno primario, appunto, infatti la Caritas dice che l'erogazione media di pasti è di più di 16.000 al giorno, ovviamente in tutta Italia. Allora, i dati sono esattamente come hai detto tu, ogni giorno c'è una media di 16.500 pasti che la Caritas dà alle persone bisognose e in un anno sono stati oltre 6 milioni i pasti erogati. Queste sono attività svolte nelle 449 mense sparse su tutto il territorio nazionale. Questi sono i numeri della Caritas riferiti all'anno 2011. E le cifre sono sempre più imponenti, evidentemente, perché ci sono aumenti. Una volta erano l'immagine a quella degli stranieri che si rivolgevano alla Caritas, ma adesso non mi pare sia più solo così, cioè ci sono anche italiani. Guarda, allora, per quanto riguarda i dati, se vogliamo fare un paragone nei primi sei mesi di 2012 rispetto a quelli del 2011, già quest'anno c'è un aumento del 44,5% in più rispetto al 2011, quindi rispetto ai 6 milioni di pasti erogati l'anno scorso. Per quanto riguarda la tipologia delle persone che hanno beneficiato dei servizi della Caritas, abbiamo il 20% di italiani e il 7% di stranieri. Diciamo che qui il dato si è invertito rispetto a quello che è una tendenza diffusa e consolidata fino agli anni scorsi. Eh sì, purtroppo è uno degli effetti della crisi, evidentemente. Pensiamo anche a tante persone che magari sono rimaste non solo senza lavoro, ma che magari anche vivono da sole, quindi non hanno un supporto di una rete familiare che li possa sostenere. Sì. Soprattutto anche perché dobbiamo pensare che le famiglie che si rivolgono a questi centri non sono solo persone che hanno bisogno di mangiare, come abbiamo detto, però ci sono anche famiglie che hanno anche degli altri fabbisogni alle quali per disperazione si rivolgono a questi centri. E sono persone che si rivolgono anche perché hanno problemi di lavoro, hanno problemi di beneficiare di alcuni servizi sociali e hanno bisogno anche di ricevere cibi, vestiari, quindi parliamo sempre di beni primari e tutti i dati che hanno avuto un'impennata in questi ultimi anni da quando questa crisi, fondamentalmente pensiamo già dal 2008, ha cominciato ad assumere delle dimensioni che ancora secondo me non hanno raggiunto il limite massimo purtroppo. Benvenga e benemerita ovviamente l'opera della Caritas, noi ne parliamo già anche in altri spazi con un'apposita rubrica, ma viene da pensare che se non ci fosse la rete della Caritas cosa succederebbe? Guarda, io voglio lanciare anche una provocazione, perché comunque si è parlato molto di far pagare l'IMU alla Chiesa, la Chiesa ha sempre detto, è vero, si può ragionare sull'IMU, poi è anche vero che si offrono dei servizi che in realtà dovrebbe garantire lo Stato e che la Caritas in primis ha sempre sopperito dando questi tipi di servizi, perché è vero che come abbiamo detto la mensa e il mangiare è sempre stato un servizio fondamentale, sempre più ricercato, ma come ho detto i servizi che cui stanno dando e le carenze sociali che stanno sopperendo in virtù di quelli che sono i tagli che questi governi stanno dando sempre, stanno rivolgendo sempre più nei settori socio-assistenziali, veramente anche pensare come la Caritas possa continuare a sopperire queste esigenze e questo fenomeno che appunto sembra che stia assumendo delle dimensioni veramente sempre più sproporzionate mese dopo mese. È anche vero che per esempio le persone che si rivolgono alla Caritas sono sì per lo più casalinghe, c'è stato un aumento del 177%, ma il 50% sono anziani e i pensionati hanno raggiunto un aumento del 65% rispetto all'ultimo anno. Eh sì, anziani e casalinghe sono cresciute notevolmente, e anche il nostro territorio, anche nel nostro Veneto, credo che anche a voi risulti un po' questa situazione. Noi siamo in contatto con le nostre Caritas diocesane e ce lo dicono, ma la conferma credo possa arrivare anche da voi. Sì, poi oltretutto la Caritas bisogna evidenziare come abbia istituito anche delle pratiche per il prestito della speranza, che è un'iniziativa promossa dalla Caritas e dalle associazioni bancarie qualche anno fa, di cui hanno gestito oltre 3.897 pratiche. Però bisogna anche dire che di fronte a quelle che sono le incapacità di welfare di far fronte alle nuove povertà, e quindi l'estremo ritardo con cui certe misure che il governo non sta rivolgendo, quindi facendo mancare un sostegno a queste famiglie, la sola Caritas sta diventando un riferimento per questi disperati. Ma ti devo dire che anche noi come associazione dei consumatori, come Adico, in prima linea ci troviamo molte volte a far fronte a delle situazioni in cui sono gli stessi servizi sociali di molti comuni che ci rivolgono a noi, che non sanno come poterli aiutare, che interveniamo, e anche gratuitamente, perché pensiamo a tutte quelle persone che hanno perso il lavoro e la banca non permette di bloccare il mutuo, o persone che non sono più in grado di pagare le bollette e non sanno come fare. Quindi ormai si sta creando una rete di sostegno, però è anche vero che bisogna che veramente chi è al governo deve cominciare a valutare seriamente quali interventi poter fare per fare in modo che questo fenomeno venga posto argine. Mi ricordo l'ultima segnalazione ricevuta qualche settimana fa, dove c'era gente che si lamentava che per esempio la social card non viene più ricaricata da un sacco di tempo, e sulla social card qualche ministro dell'economia del governo Berlusconi si è fatto una notevole propaganda. Eh sì, la social card, io me l'ero dimenticata onestamente, però esiste ancora, dovrebbe funzionare, e casomai ne parliamo in uno dei prossimi appuntamenti. Intanto grazie ancora per questo approfondimento, per questo appuntamento, ci sentiamo la settimana prossima con altri due temi. Buona giornata. Grazie a te Mirko, buona giornata a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.